24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. L'Europa preme per l'approvazione della riforma Monti sul mercato del lavoro. Da Tokyo il Premier spiega: gli italiani la vogliono, spero nel via libera entro l'estate. L'Italia, dice il Presidente del Consiglio, può avere un ruolo cruciale nell'Eurozona del futuro. Secondo un sondaggio tedesco, le donne ai vertici delle aziende farebbero aumentare i rischi. Vinitali di Verona, dopo il nuovo regolamento europeo, produttori di vino biologico a confronto, e a Radio 24 dicono finalmente se ne parla. Il calcio professionistico del vecchio continente si mobilita contro la fame in Sahel. Benvenuti a questa nuova edizione di 24 ore in Europa da Paolo Panceri. L'Europa preme per l'approvazione della riforma Monti sul mercato del lavoro e nel frattempo prosegue il roadshow del Premier in Asia. Da Tokyo Monti evidenzia che l'Italia può avere un ruolo cruciale nel definire come sarà l'Eurozona in futuro, in particolare sulla sua salute finanziaria. Il Premier si dice fiducioso sull'approvazione della riforma del lavoro entro l'estate ed evidenzia gli alti consensi che i sondaggi assegnano al governo e non ai partiti. A Tokyo il Presidente del Consiglio Monti parla della riforma del mercato del lavoro davanti ai rappresentanti del mondo finanziario ed economico. Ne parla anche con il ministro delle finanze e con il premier Noda. Gli italiani, dice, ritengono che la riforma del lavoro sia necessaria. Anche per le pensioni ci sono stati problemi, ma alla fine è passata. Lo stesso succederà anche per la riforma del mercato del lavoro. Sono fiducioso. Parole che creeranno sicuramente problemi nel mondo politico, ma che Monti si è sentito di dire qui mentre cerca di attirare nuovi investimenti sull'Italia. Ha parlato di come l'Europa sta superando la crisi dell'Eurozona e dell'Italia che da parte del problema è diventata una parte della soluzione. Abbiamo in comune lo sforzo per il risanamento di bilancio e il risanamento finanziario e anche al tempo stesso per una maggiore crescita. Nel caso dell'Italia questo sforzo viene condotto sia in primo luogo all'interno del Paese, sia con un'azione costante e tenace. Ma come attirare più investimenti in Italia? Occorre continuare a fare, ha detto Monti, quello che l'Europa e l'Italia stanno facendo e cercare di far capire ai nostri interlocutori quali sono i nostri sforzi. Nel frattempo l'Europa potrebbe decidere di rafforzare nel vertice Ecofin informale del prossimo weekend il fondo salva stati a protezione dell'euro. Se l'Ocse chiede di ampliare in modo considerevole il firewall anticrisi, la Germania ha aperto un accostamento dell'attuale fondo salva stati temporaneo con quello permanente. Sergio Nava ha chiesto al vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani qual è la posizione dell'esecutivo comunitario in vista di questo cruciale appuntamento. Io sono assolutamente schierato su una posizione per il sì all'aumento del fondo salva stati, che è uno strumento che offre anche garanzie ai mercati e quindi fiducia agli investitori e fiducia agli stati che sono impegnati in un'azione di risanamento sia dei conti sia del sistema del lavoro sia in un'azione a favore della crescita, quindi l'economia reale, industria, imprese, mercato. A suo parere si andrà nella direzione auspicata dell'Ocse o in una direzione più moderata, che è quella poi tedesca, di affiancare i due fondi, quello temporaneo e quello permanente, per arrivare, diciamo, a 700 miliardi o poco più? L'importante è che ci sia un fondo che rappresenti uno strumento a tutela della stabilità del nostro sistema, non soltanto monetario, ma del nostro sistema economico in generale. Se si va oltre la proposta tedesca si dà ancora maggior forza al sistema europeo, a mio giudizio. E veniamo alle borse europee, che hanno chiuso tutte in negativo. Il crescente timore sulla situazione finanziaria spagnola hanno penalizzato le borse europee, con Madrid che ha ceduto il 2% nonostante le rassicurazioni arrivate dal governo iberico. Ha resistito solo Milano in calo dello 0,28%, mentre Francoforte, Parigi e Londra hanno perso circa l'1%. A penalizzare i listini europei ha contribuito anche la debolezza di Wall Street dopo il dato sotto le attese sugli ordini di beni durevoli. A Piazza Affari sul finale di seduta è rialzata improvvisamente MPS, che ha chiuso in rialzo del 5% circa alla vigilia dei conti dopo una seduta sotto la parità. Ancora in crescita Finmeccanica più 3%, che ha guadagnato il 4,4% in due giorni sulle indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore di un interesse della giapponese Hitachi per le società del gruppo Ansaldo STS e Ansaldo Breda. Tra i titoli negativi in forte calo BPM, meno 5%, dopo i risultati sotto le attese diffusi alla vigilia, e Mediaset, meno 3%, ancora penalizzata dai dati di bilancio comunicati lo scorso 20 marzo, data da cui il titolo ha ceduto oltre il 9%. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Il governo Monti è una medicina necessaria e i partiti politici sono in caduta libera. L'Europa è un faro, qualcosa per cui lavorare e da promuovere, e l'Italia non deve assolutamente uscire dall'euro. Sono alcuni risultati della ricerca di Censis e 50 e più, l'associazione di ultra cinquantenni aderenti a Confcommercio, presentata al CNEL a Roma. Elisa Mann, responsabile del settore cultura del Censis, al microfono di Adriana Fracchia. La ricerca ha dedicato 3 domande alla dimensione europea, ma sono domande molto centrate. Una è sul rapporto con l'euro: assolutamente non vogliono, gli italiani intervistati non vogliono uscire dall'euro. L'altra è se la dimensione europea rappresenta uno svantaggio per noi in riferimento all'Europa. Assolutamente no, dicono che gli standard europei sono assolutamente necessari, quindi è qualcosa a cui rimanere agganciati, e addirittura una percentuale molto alta chiede un governo europeo. I nostri italiani sembrano, gli italiani intervistati in questo campione, molto avanti, cioè sono già oltre questa impasse in cui ci troviamo ora, chiedono un governo europeo, chiedono una democrazia più partecipativa, più diretta, quindi malgrado siano di una fascia d'età 50-65 anni, forse sono più in sintonia con il nuovo che avanza rispetto alla classe politica. Secondo un documento della Commissione europea, le valutazioni e gli umori dei mercati restano fragili, l'avversione a rischio non è diminuita e, nonostante qualche segno di stabilizzazione, i rischi delle prospettive dell'economia restano verso il peggioramento, lo anticipa il Sole 24 Ore Radio Cor. Le donne ai vertici delle aziende farebbero aumentare i rischi, lo sostiene un sondaggio tedesco. Controordine. Non è vero che le donne al comando sono più prudenti. Tutt'altro, se la banca apre le porte del consiglio di amministrazione al gentil sesso, i rischi aumentano. Lo stesso risultato lo si ottiene se al vertice cresce il numero di giovani dirigenti. Non sono frasi campate per aria, sono il frutto di uno studio commissionato dalla Bundesbank, la banca centrale tedesca, condotto su tutti gli istituti di credito della madrepatria in un arco temporale che va dal 94 al 2010. Dunque, va in pezzi l'immagine della donna manager meno propensa ad assumere pratiche rischiose di business rispetto al collega uomo, colei che avrebbe dovuto salvare il capitalismo dall'avidità e dal cinismo. I ricercatori spiegano che questo risultato potrebbe essere dovuto soprattutto al fatto che le donne hanno meno esperienza dei colleghi uomini. Ma allora non se ne esce, perché se non si permette alle signore di farsi le ossa, non impareranno mai. Detto questo, sebbene la Buba sia la committente del rapporto e lo abbia pubblicato, ha anche dichiarato che i risultati non rispecchiano necessariamente le vedute dell'istituto o del suo personale. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 Ore. Folta la rappresentanza dei produttori di vino bio al Vinitaly in corso a Verona. Gli esperti si sono confrontati anche sul regolamento europeo approvato in febbraio. Speravamo di più, ma l'importante era cominciare, dice Cristina Micheloni, vicepresidente dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, al microfono di Laura Bettini. Finalmente, dopo 21 anni, possiamo parlare di vino biologico e anche utilizzare il logo europeo del biologico sulle bottiglie di vino, quindi è un punto importante. Questo è un regolamento sulla vinificazione biologica, è un compromesso politico raggiunto dopo un bel po' di anni di faticose negoziazioni. Sicuramente si può fare di meglio, eravamo un po' più ambiziosi. Però in particolare su quali punti si potreste insistere? Allora, io non voglio subito parlare della solforosa, anche se è stato il punto chiave della discussione che ha rallentato tutto, però sicuramente si può essere più restrittivi sull'uso dei solfiti, ma anche sulla lista delle tecniche e degli additivi ammessi. Ce n'è alcuni che noi vorremmo vedere fuori a breve, capiamo la difficoltà di alcuni paesi che magari hanno altre tradizioni vitivinicole, e altri che invece sono un po' più tecnologici, più moderni, per esempio l'isozima, che noi vorremmo vedere utilizzabile, potrebbe darci una mano a usare meno solfiti, per esempio. E anche le diverse tecniche fisiche, che qui non hanno il problema di residui, che però portano abbastanza lontano il vino da quello che è l'uva originaria. Trattamenti termici, per esempio i 70 gradi per il trattamento termico, possiamo accettarli oggi, però se pian piano riusciamo ad abbassarli non sarebbe male. Sconfitta di Ryanair nel duello giudiziario contro la decisione della Commissione europea che ha ritenuto illegittimo il prestito di Stato ad Alitalia, ma ha autorizzato la vendita dei beni di quest'ultima. Il ricorso della compagnia low cost è stato respinto dal Tribunale europeo. Ora lo sport. Il calcio professionistico europeo si mobilita per il Sahel. Dal 30 marzo al 2 aprile sono previste le giornate calcistiche contro la fame che nella regione africana minaccia milioni di persone. Ed è tutto per 24 ore in Europa. Ancora un saluto da Paolo Panceri. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.